Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Anche oggi apriamo il nostro appuntamento con un aggiornamento sul coronavirus. In linea il professor Giuseppe Remuzzi, direttore del Mario Negri. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci chiediamo tutti come trattare questo virus. Sarà possibile? Ci sarà un vaccino? Ci sarà un trattamento? Per adesso non c'è nessun trattamento approvato. Però la Cina sta utilizzando un farmaco antivirale. Si chiama Remdesivir, è stato studiato in topi e scimmie infettate con coronavirus e sembra che funzioni. Si deve dare endovena per 10 giorni. Hanno provato negli Stati Uniti attraverso un sistema di approvazione che si chiama utilizzo compassionevole. Non è ancora formalmente approvato il farmaco, però lo si può dare con questo sistema in condizioni di emergenza. Era un paziente negli Stati Uniti che è stato in ospedale per una polmonite, è stato trattato col farmaco, i suoi sintomi sono migliorati rapidamente. Vuol dire che abbiamo trovato la cura? No, non è detto. È ancora lunga, però ci sono 2 studi clinici che si stanno facendo a Wuhan in Cina. 500 pazienti riceveranno il farmaco, 500 pazienti riceveranno una sostanza uguale con effetto placebo, non sarà il farmaco. Sapremo nel giro di un certo numero di giorni, non tantissimi, se il farmaco effettivamente funziona. È stato utilizzato con altri virus, è stato utilizzato con Ebola, col virus Marburg, con SARS ed è stato studiato anche con altri coronavirus. Pare che sul coronavirus funzioni meglio che con gli altri virus. La Lega Italiana contro l'epilessia scende oggi in campo in occasione della giornata internazionale contro i luoghi comuni e le fake news che ancora pesano su questa malattia. A Obiettivo Salute il commento del professor Oriano Mecarelli, presidente dell'ALICE, del Dipartimento di Neuroscienze Umane presso la Sapienza di Roma. Buongiorno, sì, oggi questa per noi è una giornata estremamente importante e soprattutto è importante per le oltre 500.000 persone che in Italia soffrono di epilessia. Il primo luogo comune da sfatare è che l'epilessia non è una malattia psichiatrica, quindi non è una malattia mentale, anche se a causa di pregiudizi e ignoranza molto radicati spesso viene considerata tale. Non necessariamente l'epilessia compromette la sfera cognitiva e ne deriva quindi che le persone che soffrono di epilessia possono guidare con determinati limiti, così come possono praticare sport e anche eventualmente avere figli. L'importante è che le persone che soffrono di questa patologia siano seguite in centri specializzati da medici che conoscono bene l'epilessia e che quindi possono dare tutte le indicazioni per ogni caso specifico. Bene, per oggi è tutto. La programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Io vi aspetto in diretta Facebook. Oggi ci occupiamo del nostro stomaco e della nostra digestione. Non mancate, vi aspetto. Una buona giornata da Nicoletta.